edizione. Sono le 6:16, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, un aggiornamento che arriva dagli Stati Uniti, che viene battuto dalle agenzie, dall'ANSA in particolare. Il contratto dei lavoratori della Chrysler è scaduto, ma tra l'azienda guidata da Sergio Marchionne e il potente sindacato dei metalmeccanici statunitensi non è stato raggiunto nessun accordo. L'intesa era prevista entro la mezzanotte, le 6 della mattina in Italia, quindi un quarto d'ora fa, ma al tavolo non si sarebbe presentato il leader del sindacato Bob King, e Marchionne avrebbe, riferisce l'ANSA, inviato una dura lettera a King accusandolo di non aver mantenuto gli impegni, di non tenere in giusta considerazione i 26.000 dipendenti della Chrysler. Vedremo che cosa succederà. Probabilmente si dice che l'accordo verrà esteso per un'altra settimana, il precedente contratto, nell'attesa di trovare un accordo. Veniamo dunque alle prime pagine dei quotidiani, e oggi vogliamo partire dal Sole 24 ore, perché con l'approvazione definitiva ieri della manovra, il Sole 24 ore oggi in edicola ha un'iniziativa particolare, nel senso che presenta uno speciale addirittura di 32 pagine sulla manovra, con tutti i dettagli dentro, tutte le guide che possono interessare insomma, per conoscere, capire la manovra, per capire che cosa c'è dentro, oltre che una serie di commenti a partire dall'editoriale del direttore Roberto Napoletano intitolato La sfiducia dei numeri, e anche altri punti come quello di Roberto Perotti sui conti, un articolo del ministro del welfare Maurizio Sacconi, e poi sulle pensioni quello di Elsa Fornero. E questo è il Sole 24 ore che oggi trovate in edicola, che naturalmente anche le altre notizie, ha una sorta di prima pagina dedicata alla manovra, un primo dorso, così si chiama tecnicamente, e un secondo dorso invece dedicato al resto dell'attualità, la cui apertura è il presidente della Commissione Europea José Manuel Durão Barroso, che parla di eurobond. Il titolo è Barroso accelera sugli eurobond. In quella che è tecnicamente l'apertura vera e propria, ossia il titolo che si trova sulla sinistra, ma in questo caso è più piccolo, è la vicenda Berlusconi-Lavitola. Vi scagionerò tutti, tensione Premier Colle, lo scontro istituzionale che non serve al paese, è il titolo del commento di Stefano Folli. Vi segnaliamo altre due storie: la questione della sanatoria in tre passaggi per le liti dipendenti col fisco, anche a questo dedica spazio il Sole 24 ore, e poi la vicenda del San Raffaele, c'è un aggiornamento, 250 milioni da Loior e da Malacalza. Il Corriere della Sera, l'apertura è dedicata alla questione intercettazioni, il Quirinale dice no a Berlusconi, Napolitano blocca l'ipotesi di un decreto per limitare le intercettazioni, nelle nuove carte il Cavaliere rassicura la Vitola, vi scagiono tutti. E poi Fiorenza Sarzanini parla del verbale della segretaria di Berlusconi Marinella, il presidente mi disse infastidito, dagli quei soldi. Riferisce in retroscena del colloquio tra Berlusconi e Napolitano Marzio Breda sul Corriere della Sera, e scrive giustizia e crescita, 20 minuti di colloquio teso. Spazio anche alla manovra ovviamente. Sul Corriere della Sera, la manovra è passata, ma sul lavoro flessibile si cambierà di nuovo, così scrive il Corriere, e c'è una fotonotizia sulle contestazioni delle quali vi abbiamo parlato. Infine vi segnaliamo di taglio basso il commento di Mario Sconcerti, con titolo a mo' di battuta Trabzonspor, cose turche per l'Inter, e si parla naturalmente della sconfitta dell'Inter di ieri. La Repubblica, legge bavaglio, veto di Napolitano, questo è il titolo principale, il Colle a Berlusconi, no al decreto intercettazioni, il Premier che dice l'Italia lo vuole, si parla della manovra approvata e delle contestazioni anche qua, si parte da una foto in prima pagina, c'è naturalmente la vicenda dell'intercettazione di Berlusconi con la Vitola, un titolo dedicato a Air France che lascia Malpensa, dice la fine dell'hub, e un titolo anche dedicato a Bonatti, ve ne abbiamo parlato poco fa nel giornale radio, il grande alpinista scomparso. Intercettazioni sfuma il blitz è il titolo della Stampa, quindi come vedete tutti più o meno in linea, e anche qua foto degli scontri, la manovra passa fra gli scontri, e poi le carte su queste vicende qua, sulla vicenda La Vitola, la nuova pista, corruzione internazionale, inchiesta sugli appalti esteri di Finmeccanica, nel mirino anche le consulenze d'oro, c'è un titolo dedicato anche a Milanese, no alla giunta, no della giunta all'arresto. Ecco, un altro tema del quale parleremo più avanti, tra l'altro, a cui la Stampa dedica un titolo: Sarkozy e Cameron in Libia da vincitori. Vi riferiamo poco fa che ci sarà oggi la visita dei due leader. Berlusconi, vi scagiono tutti, è il titolo del Messaggero. La telefonata alla Vitola, intercettazioni, no del Colle al decreto, tutti in linea anche anche sulla manovra. Il Messaggero titola: manovra, via libera finale, Marcegaglia è solo tasse. Vi segnaliamo dal Messaggero un'altra notizia che riguarda Roma, ma non solo naturalmente, e si parla della tubercolosi al Gemelli, 3 infermieri positivi, si allarga il contagio, riferisce il Messaggero. Per quanto riguarda invece, ecco, sempre Roma, abbiamo il titolo che riguarda il ministro Galan, che dice, il titolo è Galan, l'antifestival di Roma, il ministero taglia il contributo alla mostra del cinema. Un'occhiata alle cose che abbiamo trovato in giro sui siti, anche sui quotidiani internazionali. Il New York Times apre sul piano per il lavoro di Obama, spazio naturalmente anche alla Palestina, ma interessante la vicenda delle offerte che stanno facendo i college in questo periodo per far risparmiare le famiglie. Che cosa gli dicono? Gli dicono il college dura 4 anni, voi mandate i vostri figli, gli pagate 4 anni, se si fanno un anno fuori corso, l'anno fuori corso glielo paghiamo noi, questo per incentivare le famiglie. Evidentemente stanno calando le iscrizioni anche sulla base della carenza di denaro. Il Washington Post ha anche qua una storia interessante per quanto riguarda il presidente Obama sui green jobs, fa riferimento il Washington Post ad un piano da 38 miliardi in prestiti garantiti che avrebbe dovuto creare o conservare oltre 60.000 posti di lavoro. Ebbene, a 2 anni dall'introduzione di questo piano, di posti di lavoro ne sono stati creati 3.500, cioè un ventesimo di quelli che dovevano essere creati, e quindi attenzione puntata anche su questo. Vi segnaliamo dalla Gran Bretagna il Guardian, perché anche la Gran Bretagna è alle prese con l'austerity, e anche la Gran Bretagna, così come noi, ha un governo che economisti, industriali e non solo criticano per l'attenzione data in maniera molto energica ai risparmi e non allo sviluppo. Tutto questo dopo che i disoccupati sono saliti più o meno a 2 milioni e mezzo anche a causa degli esuberi nel settore pubblico. Il Times pubblica una grande foto di Sarah Palin, la ricordate, l'ex star repubblicana, e il titolo è Sarah Palin hit by cocaine and sex claims, scrive il quotidiano. Ci sono delle rivelazioni scritte in un libro e riportate da alcuni quotidiani americani, che sono prese in realtà con un certo scetticismo da molti osservatori. Avrebbe passato una notte, quando non era ancora sposata, con un ex star dell'NBA, e avrebbe fatto uso di cocaina quando era in settimana bianca con il marito. Infine vi segnaliamo due quotidiani francesi, Le Monde e Le Figaro. Perché? Perché sulla rassicurazione, sulla dichiarazione congiunta che è arrivata ieri da Angela Merkel e Nicolas Sarkozy sul tema della Grecia, come dire, hanno una visione radicalmente diversa. Perché? Perché Le Figaro titola: Parigi e Berlino confermano il posto della Grecia nell'euro, insomma rassicurano sul posto della Grecia nell'euro. Le Monde invece dice: Sarkozy e Merkel aumentano la pressione sulla Grecia. Probabilmente nella dichiarazione di ieri di Merkel e Sarkozy, evidentemente, c'erano entrambe le cose. Prima edizione. Le 6:34 minuti, 42 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Una buona mattina da Daniele Biacchesi e Italia in controluce, la mattina in diretta su Radio 24. A Roma si è tornato ad uccidere. Il numero di omicidi legati ai traffici di organizzazioni criminali è cresciuto in modo esponenziale. Si ammazza in periferia come nel centro. A decine sono caduti in questi giorni. A Roma sono presenti tutte le mafie, le risorta dall'ombra degli anni 70-80, la famigerata banda della Magliana. Monica Ceravolo ha intervistato Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto di Roma. Nascono dalle viscere dei contrasti tra le varie organizzazioni criminali, omicidi o gambizzazioni, che sono degli avvertimenti a un'altra organizzazione di adempiere degli obblighi o di mantenersi in determinati limiti. Resta il fatto che tutti gli omicidi che si contano quest'anno a Roma, eseguiti in modo plateale, in pieno giorno e in mezzo alla gente, hanno fatto crescere un certo allarme sociale e sollevato non poche polemiche. Effettivamente dall'inizio dell'anno gli omicidi a Roma sono cresciuti. Naturalmente non tutti sono riferibili a una stessa matrice. Ci sono omicidi che nascono da motivazioni personali, familiari, passionali, e omicidi invece che sono collegati all'attività criminosa delle stesse vittime e dei contesti in cui le vittime agivano. Per quanto riguarda questi ultimi, e sono quelli di maggiore attenzione da parte soprattutto della Direzione Distrettuale Antimafia, che cerca di capire il perché le organizzazioni criminali hanno scelto, forse con maggiore frequenza di prima, di risolvere i loro contrasti interni attraverso intimidazioni, gambizzazioni o, in caso limite, omicidi. E questo è oggetto di un'attenta indagine che è in corso ora a Roma. Stando alle indagini fin qui svolte, è possibile dare un colore alla criminalità romana, dipingerne i contorni e capire che peculiarità abbia? A Roma esistono una pluralità di organizzazioni, alcune di natura, come dire, esterna, cioè importate da altre regioni italiane, per esempio organizzazioni camorristiche della mafia siciliana, calabresi, e organizzazioni anche di altre mafie, talvolta anche straniere, come quelle nigeriane, cinesi. E poi ci sono delle organizzazioni che potremmo definire autoctone, romane, che siano esse o meno eredi della cosiddetta banda della Magliana, che agiscono sul territorio, si impadroniscono di una parte del territorio della città in cui svolgono preeminentemente le loro attività illecite. L'ombra della banda della Magliana torna spesso quando si parla di criminalità romana. Alcune volte, e questo sembra essere il caso, lo fa in maniera più prepotente. È solo un'impressione, il retaggio di un mito che, seppur negativo, aleggia ancora sulla capitale, oppure c'è una continuità concreta tra quelli che furono i componenti della banda e i loro interessi e la criminalità presente oggi a Roma? Vi sono oggi degli epigoni, sia perché talvolta ci sono dei vecchi personaggi che allora, negli anni 70, già in attività e che proseguono la loro attività oggi, e poi perché ci sono comunque degli epigoni che, pur essendo giovani, cercano in qualche modo di ripercorrere le orme della banda della Magliana, con quei meccanismi del controllo delle attività criminose, giochi d'azzardo, usura, estorsioni tipiche di droga, che erano tipiche già della banda della Magliana. Era la prima edizione di Italia in Controluce, vi saluta Daniele Biacchesi, torniamo oggi 13.30 a Radio 24. Le 6:38 minuti, 44 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Veniamo dunque al primo tema di approfondimento che tocchiamo, ossia la manovra. Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Allora, oggi l'abbiamo già riferito prima, lo ribadiamo, in edicola c'è un numero speciale del Sole 24 Ore, di fatto tutta la prima parte del Sole, 32 pagine sono dedicate alla manovra, ed è il Sole che vedete in edicola, con un editoriale del direttore Roberto Napoletano, molti commenti e naturalmente molte analisi, molti dettagli. A te chiediamo, Mauro, di aiutarci a fare un punto nel più breve tempo possibile. Alla fine, che cosa c'è dentro questa manovra? È una buona domanda, perché credo che in molti ci siamo persi con le successive modifiche o proposte di modifica. Comunque, partiamo dalle cose, diciamo, più importanti, più vaste. C'è l'aumento dell'IVA, quindi ci sarà dal 20 al 21% ripetiamo, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Qui, consentimi Simone, stiamo un po' attenti tutti quanti, perché non è che tutti i beni siano con l'IVA al 20%, l'abbiamo spiegato sul Sole, lo spieghiamo oggi, lo spieghiamo sul sito, insomma ci potrebbero essere degli aumenti un po' maliziosi, per dir così, da parte appunto nei confronti dei consumatori. Poi naturalmente arriverà a gennaio questo riordino delle rendite finanziarie, che mi sembra un altro passaggio decisivo, infatti ci dedichiamo diversi servizi. Quindi abbiamo un riordino impostato sul 20% di tassazione, oggi siamo con due aliquote, una al 12,5%, una al 27%, quindi mi sembra questo un altro punto fondamentale. Sulle pensioni non si è fatto, come probabilmente sapete, nulla per quanto riguarda riscatti di laurea, riscatto di anzianità, però c'è un anticipo ad esempio per l'innalzamento delle pensioni delle donne nel settore privato. Ci sono altre misure sul lavoro molto importanti, alcune anche molto discusse, probabilmente faranno molto discutere una volta che le vedremo. Sì, il famoso articolo 8, poi c'è il contributo di solidarietà per i redditi sopra i 300.000 euro, ma dal punto di vista delle entrate non vale un granché. Sempre dal lato entrate, tagli alle spese, ci sono forti tagli alle spese ai ministeri, e cito, attenzione, dalla prima pagina del Sole 24 Ore, poi la stretta naturalmente sugli enti locali. E poi il grande tema, Mauro, è quello che non c'è dentro questa manovra e quello che forse si dovrà fare, perché qua si parla da una parte della necessità di un decreto sviluppo, di un nuovo decreto sviluppo, e dall'altra parte della forse necessità di una manovra bis. Sì, che a questo punto non so neanche più con che numero chiamare, ma insomma è vero che ci sono delle misure che potrebbero arrivare di nuovo a breve per ulteriori correzioni. Distinguiamo, ti propongo due cose. L'una, le cose che non ci sono, ad esempio non c'è la famosa patrimoniale di cui tanto si è discusso, non se ne è fatto niente, però continua, come dire, a proiettare la sua ombra sui lavori parlamentari e sui nostri conti. Così come il condono, Mauro, del resto. Esatto, è così come il condono, che infatti è rispuntato ieri in un ordine del giorno. Condono fiscale, condono edilizio, di solito quando i momenti dei conti non sono buoni il condono, ohimè, è brutto dirlo, ma è un'arma per fare cassa, è un'arma che di solito si dimostra abbastanza efficace, abbastanza perché, come sappiamo, poi bisogna andare a recuperare qualcuno che si dimentica magari di pagare le rate. Ci sono poi le tasse che non si vedono, attenzione, perché qui nella manovra, quindi è legge, adesso diventa operativa, ci sono anche le facoltà per i comuni di sbloccare l'addizionale dell'IRPEF e c'è un premio molto più consistente per i comuni che facciano la lotta all'evasione, quindi ci si può attendere anche un aumento di prelievo in sede locale. Sì, o comunque di pressione fiscale. In 10 secondi che cosa si sta pensando sullo sviluppo, Mauro? Ma devo dire la verità, noi siamo rimasti un po' scettici sul Sole, perché mi pare che ancora stiamo girando attorno all'utilizzo dei soliti fondi FAS, soliti nel senso che se ne parla molto, poi in realtà le cose non si sbloccano granché. Il problema, mi sembra Simone, è che non abbiamo una dotazione forte finanziaria da investire sullo sviluppo, quindi quello che possiamo fare sono riforme cosiddette a costo zero, che so, interventi di liberalizzazione, interventi di riduzione di qualche costo da qualche parte. In realtà non vediamo ancora un tracciato chiaro e consistente da questo lato. Grazie Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, buona giornata Mauro. Buona giornata anche a voi. E ora ci occupiamo di Libia. Saluto Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI, esperto di relazioni italo-libiche. Buongiorno Varvelli. Buongiorno. Il tema dal quale vogliamo partire con lei è questo viaggio di oggi di David Cameron e Nicolas Sarkozy in Libia. C'è chi titola, come fa la stampa oggi, Cameron e Sarkozy in Libia da vincitori, tra l'altro con Bernard Henri Lévy, che ha tessuto le fila dei rapporti con il Consiglio Nazionale di Transizione. Ce lo siamo chiesti tante volte, chi ha vinto davvero in Libia, chi trarrà davvero i benefici di questa guerra? Una risposta a questa domanda, Varvelli. Adesso se guardiamo il punto della situazione, sembra che Cameron e Sarkozy vogliano evidenziare che i vincitori sono loro, e lo vogliono fare in una maniera anche piuttosto evidente, perché un viaggio in questo momento in una situazione in Libia che non è per nulla pacificata, perché i realisti di Gheddafi sono presenti almeno in 3 città, c'è Bani Walid, Sirte e Seba nel sud, ma tutta la situazione del sud del Fezzan è ancora molto, diciamo, magmatica, fluida. Non sappiamo ad esempio la posizione dei Tuareg, il sud nel Fezzan, se si è sollevato contro Gheddafi o no. Abbiamo una situazione veramente complessa, quindi andare adesso è anche una sorta di rischio, però serve proprio per dare un impulso in direzione di una leadership anglo-francese di tutta questa primavera araba. Io penso che sia più ci siano più motivazioni politiche che economiche, e penso che Sarkozy e Cameron vogliano proprio evidenziare questo impulso politico. In sostanza, segnare il territorio. Abbiamo una breve pausa per la viabilità, la ritroviamo subito dopo. Le voglio fare una domanda sulla questione più puramente militare, su come vanno le cose sul territorio, perché come al solito le notizie che ci arrivano dal CNT, dal Consiglio Nazionale di Transizione, sono non sempre supportate dalla realtà. Prima edizione. 6:47 minuti e 16 secondi, ancora con Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI. La domanda è sulla avanzata o non avanzata dei cosiddetti ribelli, soprattutto su Bani Walid e su Sirte. Ne abbiamo già parlato in realtà nei giorni scorsi, però mi sembra la situazione sia ancora in completo stallo, Varvelli, e finché quelle non sono prese, no, mi sembra di capire che la Libia non è presa. Tra l'altro, nei giorni scorsi c'è stata anche una controffensiva dei gheddafiani su Ras Lanuf, che è un importante centro petrolifero. Mi sembra che le cose siano tutt'altro che risolte. Sì, esatto. Questo ci fa capire, insomma, quante frottole ci abbiano raccontato anche quelli del CNT. Bisogna fare, diciamo, la tara alla propaganda di entrambe le parti. E al CNT abbiamo visto soprattutto che la presa di Tripoli di fatto non è stata non è conseguito il pieno controllo del territorio del paese, e noi ci troviamo paradossalmente già in uno scenario post Gheddafi, senza sapere se Gheddafi sia di fatto ancora nel paese come lui racconta, o se in realtà si sia rifugiato già in qualche paese confinante. E se fosse in qualche paese confinante, sarebbe probabilmente ancora più allarmante la cosa che si combatte in Libia anche in sua assenza, e questo getterebbe inquietanti ombre su un futuro di pacificazione del paese. Poi bisogna considerare che il CNT stesso non sembra unito un'unica cosa con ad esempio la guida militare dei ribelli. Sì. Sembra che ci siano quasi due teste: da una parte il consiglio militare e dall'altra il consiglio politico. La parte politica. Grazie dunque ad Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI, esperto di relazioni italo-libiche e di Libia in generale. Buona giornata. Buona giornata a voi. Abbiamo Alessandro Milan con qualche anticipazione dai giornali. Abbiamo più o meno una ventina di secondi, Alessandro. Benissimo. In realtà, sì, tantissimo tempo. No, ma va bene così. No, i giornali danno tante cose su quello che è successo alla manovra. Ti segnalo solo una storia: baby bulle pignorate le abitazioni dei genitori. Dove accade? Racconta il Corriere della Sera a Milano. Due ragazze hanno picchiato una coetanea. Alla fine della causa civile, risarcimento, i genitori non hanno soldi, e vi pigliamo la casa, così imparate a educare bene la prossima volta le vostre figlie. Questa e altre storie, oltre che interviste e molto altro, in 24 mattino, a partire dalle 7:20. Alessandro, a più tardi. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Alessandro Longoni in redazione. Un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia. Ci risentiamo tra poco con il giornale radio.